Sono stramo e confuso, questo sento. C'è tutto un mondo che mi chiama dentro. C'è tutto un mondo che mi grida contro il conformismo di un sentimento. Io non voglio niente, io non chiedo mai, la convinzione è importante. Sono più duro del deodorante, ma pure un orso fa il suo decorso, piccolo ingranaggio della grande ruota, che macina nel nome delle convenzioni, che mi trasporta sul nastro delle emozioni. Sono strammo e confuso come un filosofo idealista, quando una donna vera finalmente lo conquista, ed il mio mondo che mi son cucito addosso è diventato troppo stretto come un vestito rosso. Io non voglio niente, io non chiedo mai, la convinzione è importante. Sono più duro del deodorante. Bisogna uscire per respirare, per guardare le ragazze camminare. A quello almeno io non voglio rinunciare. Strammo e confuso resto ad osservare. Parrocchiale.